sua madre perlomeno professò, e sua nonna lo sperava un altissimo prelato per un fatto strettamente personale, ma si chiamava Robin. Oh, oh, oh, Robin Hood. E si chiamava Robin, la sua banda. Sulla strada che porta a Piumazzo incontrarono un bandito gentiluomo. Disse: vengo da Cesine, sono proprio sfortunato, ma in compenso io conosco la regione, di accedere sono libero come il sole. Il cielo, io farò di te un eroe, io ti insegnerò a colpire per scappare, non ti prenderanno mai, perché tu sei Robin, più veloce del vento, quello che tu rubi lo ridai. Adesso tu sei Robin, perfetto, all'incrocio della via Tiburtina, fu investita da una strana nostalgia, disse torno tra un momento, ma nessuno ci credeva, lasciò tutte le sue cose e scappò via, lui si chiamava Robin.